Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Mezz'ora dedicata alle voci, ai fatti, alle opinioni e alla buona musica della galassia, animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Wanted milk and me the breast I suck would have a line around the hood. No member of the animal kingdom nurses past maturity. No member of the animal kingdom ever did a thing to me. So I don't eat red meat or white fish. Don't give me no blue cheese. We're all members of the animal kingdom. Your brothers and sisters in the sea. Dedichiamo questa puntata al toro, di cui non conosciamo il nome, che il 22 luglio scorso si è suicidato a Foios, un paesino spagnolo della comunità autonoma valenciana, durante lo spettacolo popolare chiamato Toro Embolado, cioè toro incendiato. In questo tipo di fiesta il toro non viene ucciso, ma viene reso furioso tramite delle torce imbevute di catrame fissate sulle sue corna, alle quali viene dato fuoco. Cresciuto nel ranch Salvador Domecq, tristemente noto per allevare esemplari destinati alle corride, il toro ha subito l'umiliante e doloroso incendio delle corna e, impazzito dal terrore e dal dolore, ha preso la rincorsa schiantandosi volontariamente contro un palo posto al centro dell'arena e morendo sul colpo. La cosa più agghiacciante dal nostro punto di vista è che ad assistere a questo spettacolo c'erano famiglie intere. Avevano portato i loro bambini a vedere una scena violentissima, mangiando e bevendo allegramente. Si sentono anche nel video tante risate. Il toro però non si è lasciato torturare, ha posto fine da solo e rapidamente al suo supplizio. È riuscito, insomma, a non dare ai suoi carnefici la soddisfazione di vederlo a lungo in agonia, e il filmato, che ha girato in modo virale in tutto il mondo, è un potente atto di accusa verso le fiestas spagnole che utilizzano i tori. Fiestas che, per la loro brutalità, per lo stress comportato all'animale e anche per i seri rischi delle persone che vi assistono, sono aspramente criticate anche all'interno della stessa Spagna. Ciò nonostante, gli eventi di tauromachia in Spagna sono ancora tantissimi, circa 6.000 l'anno, tra i quali quasi 2.000 sono le corride. Di queste ultime, la maggior parte si svolge nelle regioni di Castiglia-La Mancia, 380, Andalusia, 360 e Castiglia-León, 330. Ogni anno, nella penisola iberica, sono 10.000 i tori uccisi in queste manifestazioni. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai che per gli animali non esiste alcun diritto. Fight for animals! Fight! Fight for animals! Fight! Io non posso più restare indifferente alla violenza sul mondo animale in nome della scienza. Restare nella cronaca, come primo servizio vi proponiamo la rubrica Tigri di carta, una rassegna di notizie tratte dai principali quotidiani che ha l'obiettivo di rappresentare il modo in cui la questione animale viene appunto affrontata dai media italiani. La rubrica è curata dal nostro Lorenzo Guadagnucci. Visto il clamore che è stato riservato per giorni e giorni alla vicenda dell'orso di Trento, stupisce un po', ma forse non troppo a ben vedere, il fatto che una notizia relativa a questa vicenda sia stata invece relegata nelle pagine locali del Corriere del Trentino, senza trovare ospitalità nel quotidiano nazionale di riferimento, il Corriere della Sera, e neppure in altri quotidiani. La notizia riguarda la dinamica dell'episodio. Durante una trasmissione radiofonica su Radio 3, infatti, Claudio Groff, responsabile del settore grandi carnivori della provincia di Trento e quindi un tecnico direttamente competente per la vicenda, ha spiegato che la ricostruzione della persona che ha denunciato l'aggressione, Angelo Metlikovets, contiene qualche elemento in più rispetto a ciò che è stato riportato dai quotidiani, cioè, ha detto Groff, parlando con il diretto interessato, ci ha detto che stava passeggiando con il suo cane quando ha sentito una presenza alle spalle. Vedendo l'orso, l'uomo ha reagito con una bastonata, scatenando l'ira dell'animale. E si capisce che se così sono andati i fatti, il quadro cambia, la pericolosità dell'orso forse non è più tale e la sua reazione è più che giustificata rispetto a un incontro improvviso e a una reazione violenta, per quanto comprensibile da parte del cittadino. E tuttavia questa notizia non è comparsa sui grandi giornali, forse per non mettere in discussione, come logicamente sarebbe avvenuto, la scelta compiuta dalla provincia di Trento, che ha emesso un'ordinanza di cattura con possibilità anche di abbattimento per l'animale, che nel frattempo è stato individuato. Si tratta di un'orsa, già protagonista un paio di anni fa di un incontro con una persona e quindi con un'altra denuncia di aggressione. La vita di questo animale evidentemente è a rischio, perché il presidente della provincia ha poi definito irrilevante la dinamica dell'episodio. Tutt'altro tenore è un articolo di uno scrittore, Emanuele Trevi, pubblicato sul Corriere della Sera del 31 luglio scorso, che fa riferimento a un altro orso, questa volta in Abruzzo, protagonista di un curioso episodio. Si era avvicinato a un'abitazione, probabilmente per cercare cibo, ed era finito nel soggiorno di questa casa, rimanendo intrappolato, finché non è stato scoperto dagli abitanti della casa, ovviamente spaventatissimi, che hanno chiamato la Guardia Forestale, la quale ha provveduto a sedare l'animale e a trasportarlo nei boschi. Trevi racconta in questo suo intervento la relazione che c'è fra gli umani e l'orso. Se gli orsi sono i protagonisti, o più precisamente gli antagonisti, di innumerevoli favole e leggende, scrive, è perché rappresentano tutto ciò che nell'esistenza produce spavento con il suo puro e semplice manifestarsi. Per questo motivo è una figura più ancestrale e complessa del lupo, al quale i racconti di tutti i tipi attribuiscono una malizia fin troppo simile a quella degli umani. Sul lupo, insomma, proiettiamo qualità negative che sono le nostre, mentre l'orso sfugge a questa presa, è più inafferrabile, dunque più ricco di significati, simile in questo alle figure del sogno, di cui non sappiamo mai con certezza se ci dicono la verità o mentono per affermare un'ulteriore verità, più preziosa e meno definibile. Una fame, dopo il lungo letargo, si avvicina alle casse di notte, ma di giorno resta a largo, ricorda della mamma, del suo avvertimento, l'uomo può essere buono, ma anche molto crudele e violento, e lui un orso in gamba, fiuta nell'erba, nei sassi gli odori, fa il bagno nei torrenti, scacca e semina gli inseguitori, Bruno ha tatto, al fatto, alcuni iniziano a dire, oh, ma quello è un orso matto. Se Sempre dal Corriere della Sera, ma del 1 agosto, riprendiamo un articolo di Lorenzo Cremonesi riguardante la Siria. Il titolo è «I leoni di Aleppo trasferiti in Turchia. Corsa per salvare gli animali dello zoo». È un articolo che racconta una vicenda simile a quelle avvenute già in altre situazioni di guerra. Ricordiamo un famoso film di Emir Kusturica con gli animali dello zoo di Belgrado liberi dopo un bombardamento, ma anche le cronache riferite a Baghdad sotto l'attacco degli Stati Uniti all'inizio degli anni 2000 e con gli animali dello zoo a loro volta costretti a sofferenze inenarrabili fino anche a piani di abbattimento decisi dai militari. 3 leoni, 2 tigri, 2 orsi e 2 iene, scrive Cremonesi, sono stati trasportati in una riserva della Turchia occidentale grazie all'interesse di Four Paws International, un'organizzazione per la protezione degli animali britannica in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente turco. All'inizio dell'articolo Cremonesi scrive così: una volta era chiamato il mondo magico, lo zoo nel cuore di Aleppo. Ma questi articoli, queste cronache, sembrano trascurare una considerazione di fondo sulla natura degli zoo e sulla loro insensatezza. Che cosa potessero rappresentare dei leoni, delle tigri, delle iene ad Aleppo, veramente non si riesce a capire. Infine, un classico della presenza degli animali sui grandi giornali, la curiosità scientifica. In questo caso lo riprendiamo dal venerdì di Repubblica di fine luglio, un articolo dedicato alla libellula. La libellula da 20.000 km sopra i mari. Insetti fragili? Ma che? Ricercatori americani hanno scoperto che vanno dall'India all'Africa facendosi spingere dalle correnti come deltaplani e poi manovrano meglio di un elicottero. E questo è il sommario dell'articolo di Francesco Mezzatesta, che ci racconta quanto siano straordinari le creature che ci accompagnano in questa avventura sul pianeta Terra e delle quali sappiamo così poco. È stato ucciso Xanda, il figlio di 6 anni del leone Cecil. La morte è avvenuta esattamente nel secondo anniversario della morte del padre, che 2 anni fa, come ricorderete, aveva sollevato polemiche in tutto il mondo. Cecil, infatti, sebbene fosse diventato un simbolo nazionale, era stato ammazzato durante una battuta di caccia da un ricco americano collezionista di trofei di animali. come il padre, anche Xanda è stato attirato lontano dalla zona di sicurezza del parco nazionale dove risiedeva e dove la caccia era vietata. Ovviamente attirandolo fuori dal parco, sparargli diventa legale e possibile. Gli animalisti di tutto il mondo si sono mobilitati. La Human Society, ad esempio, ha pubblicato una petizione contro l'orrore della caccia ai trofei. Sapevo da sempre, son nato bastardo e si sente, il mio guinzaglio è un destino prepotente. Mi sa che è partito il padrone, con il caldo e la confusione. Mi ha lasciato un cartello al collo, gentile attenzione. Che scappa lasciandomi al sole. Rispondo al nome Pedro, non morde, son pulito e son fare bello. Rispondo al nome Pedro, non morde, son pulito e son fare bello. Cani pastore, cani da caccia, cani da tartufo, cani da pet therapy, cani finanzieri che fiutano esplosivi e droghe, cani pompieri che scavano nelle macerie e adesso anche cani bagnini. Nello scenario di Casal Borsetti, una spiaggia in provincia di Ravenna, il cane Richard, assieme al suo conduttore Fabrizio Zecca, hanno compiuto il salvataggio di una ragazza grazie all'addestramento ricevuto nella più grande organizzazione nazionale di volontariato dedicata alla preparazione delle unità cinofile. La ragazza chiedeva aiuto e annaspava ed è stato immediato l'intervento del cane del conduttore che, dopo aver raggiunto la ragazza, l'hanno prima tranquillizzata e poi portata a riva. Il dibattito sul fatto che sia giusto o meno addestrare e quindi in qualche modo predestinare un vivente di un'altra specie a fare un mestiere che spetterebbe a noi è apertissimo, ma intanto restiamo in tema canino e vi proponiamo la recensione di un libro sui cani del famoso etologo e filosofo Roberto Marchesini, fondatore della scuola di interazione uomo-animale SIWA. Il testo, Pensieri sul cane e altri animali, è edito dalla casa editrice Apeiron e viene recensito per noi dagli editori indipendenti Troglodita Tribe. Per chi non li conoscesse, suggeriamo una visita al loro blog trogloditatribe.wordpress.com. Down a long dirt road, past the parson's place, the old blue car to race, a little country store with a sign tacked to the side said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A. Un testo breve ma estremamente denso, capace di metterci finalmente sulla vera e indispensabile strada per comprendere il cane, per avvicinarci a lui abbandonando finalmente il ruolo di padroni. Occorre partire dall'inizio, sovvertendo l'idea che lo abbiamo addomesticato, che ne abbiamo rimodellato il comportamento in base alle nostre necessità, per poi riuscire a comprendere che umani e cani si sono plasmati vicendevolmente. Solo allora, quindi, ci risulterà più semplice e spontaneo intuire come il cane, accompagnandoci in tutte le avventure della storia, ha contribuito decisamente a farci diventare quello che siamo. Abituati a vederci come l'unico possibile centro del mondo, in genere siamo anche certi che tutto quello che piace a noi debba automaticamente valere anche per il cane. Per esempio ci ostiniamo a profumarlo con essenze floreali, perché a noi piacciono i fiori, costringendolo, in questo modo, a rotolarsi in pozzanghere putride o in cacche maleodoranti pur di togliersi di dosso quegli odori. Per vedere il cane, dunque, non bisogna guardare il cane, ma occorre osservare il mondo con occhi di cane. Volergli bene, poi, non significa riempire i nostri vuoti affettivi, né colmare le nostre carenze, ma interrogarci sui suoi reali bisogni, per scoprire, ad esempio, che il cane è un individuo che si pensa come gruppo, perché il gruppo è il suo corpo. E allora la sua felicità non sarà da misurarsi in relazione alle carezze o ai bocconcini, ma in relazione a quanto riuscirà a partecipare, a quanto verrà ingaggiato nelle attività significative della nostra vita in comune. Past the parson's place, the old blue car we used to race, little country store with a sign tacked to the side, said no L-O-I-T-E-R-I-N-G-A. Da sempre vicino a noi ha modificato profondamente la sua vita, compiendo lo sforzo maggiore di adattarsi al nostro mondo. Da una vita nomade è passato ad una vita stanziale, da un ambiente essenzialmente rurale è riuscito ad adattarsi a quello metropolitano, da un mondo ricco di moltissimi animali è passato ad uno pieno di macchine e tecnologia. Senza contare che il cane ci ricorda quanto la vita sia fatta anche di momenti di pausa, di gioco, di leccate, di ozio, ci permette di riscoprire quella corporeità che stiamo annegando in un mondo sempre più virtuale, ci regala la preziosa energia dell'animalità e ci guida all'interno della natura. Abbandonare il ruolo di padrone, quindi, significa creare una relazione che non sia più unilaterale, che faccia a meno finalmente di quell'amore per gli animali, così antropocentrico, da essere utile soltanto a celebrare il nostro ego. La fine di questo falso sentimento, allora, potrebbe permetterci di accettare i cani per quello che sono davvero. Potrebbe darci la magnifica opportunità di osservare il mondo con occhi di cane, praticando una vera accoglienza. E solo allora, finalmente, potremo inquadrarci come individualità precise, umani e cani, con bisogni differenti, che si incontrano in un particolare momento della loro vita e che devono inventarsi tutto per comunicare, vivere, condividere. Pensieri sul cane e su altri animali, di Roberto Marchesini. Edizioni Apeiron, collana Pensieri, pagine 64, euro 5. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. Take a bottle, drink it down, pass it around. Sarà mai possibile che i giovani del 2067 capiscano come i loro genitori e nonni abbiano potuto bere fluidi fuoriusciti da animali e mangiare parti dei loro corpi? È questa la domanda alla quale cerca di rispondere Carnage, una sorta di documentario parodistico e satirico che in inglese si dice mockumentary, prodotto dalla BBC e attualmente disponibile in inglese su BBC iPlayer. L'autore è il comico Simon Amstel, che rappresenta un prossimo futuro quando tutti saranno vegani. Protagonisti del film sono gli adolescenti che nel 2067 cercheranno di rendersi conto del modo in cui le persone nel 2017 hanno trattato gli animali. E nello stile di Amstel si rivolgono quindi a politici, a cuochi famosi, all'industria della carne e anche agli attivisti per i diritti degli animali, per cercare di capire come sia stato possibile il carnismo. Nonostante l'involucro divertente e leggero, Carnage ha anche un messaggio molto importante e commovente. Molti dei fatti del film sulle industrie della carne e del latte ambientati nel passato, cioè nel nostro presente, nel 2017, sono infatti autentici. I filmati sono realistici e anche tosti da vedere perché si svela la sofferenza causata agli animali dall'industria zootecnica. Comunque, per chi volesse diventare vegano non c'è bisogno di aspettare fino al 2067. Nel nostro blog restiamoanimali.it troverete un notevole archivio di ricette 100% cruelty free e vi invitiamo a provarle. Intanto, questa settimana, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ha preparato per noi una nuova ricetta solare ed estiva, quasi da spiaggia. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens, je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Una ricetta estiva che riuscirà a stupire occhi e palato. E con gran sollievo dei provetti cuochi, necessita di poca cottura. Cheesecake salato con gelatina di pomodoro. Gli ingredienti per 4 persone sono del pane integrale senza crosta oppure del pane di segale, 150 g di yogurt di soia non zuccherato e non aromatizzato, 150 g di latte di soia, un cucchiaio di panna di soia, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, 200 g di pomodori freschi, 50 g di amido di mais, olio extravergine di oliva, sale nero, basilico fresco. Foderate il fondo di uno stampo a cerniera del diametro di 15 cm con del pane integrale o di segale, utilizzando solo la parte morbida delle fette. A parte in una casseruola unite il latte, lo yogurt, 30 g di amido di mais, il lievito alimentare a scaglie, la panna di soia e un po' di sale. Mettete tutto sul fuoco e mescolando fate addensare. Togliete dal fuoco e versate la crema sulla base di pane integrale e lasciate raffreddare. Mentre l'impasto si raffredda e assoda, preparate la salsa di copertura. Frullate i pomodori e passateli col colino. Unite in una casseruola assieme al rimanente amido di mais e poco sale. Fate ritirare a fuoco lento mescolando bene con una frusta. Quando avrà raggiunto la consistenza di una gelatina, togliete dal fuoco e versate sopra la crema di yogurt. Fate freddare, togliete dallo stampo e guarnite con qualche granello di sale nero e una foglia di basilico. E siamo in chiusura. Ringraziamo chi ha contribuito a realizzare questa puntata, ovvero Lorenzo Guadagnucci, Lelle e Fabio, meglio noti come i Troglodita Tribe, Roberto Marchesini, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde. Stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.